Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino a qualche tempo fa non potevo fare a meno del mio computer per lavorare, della mia Vespa per muovermi e della televisione per distrarmi. Poi nella mia vita è successa una cosa che ha cambiato le mie prospettive e la loro importanza. In quel momento ho deciso: vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme, lo so, capita, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un kazoo. Circa 40 anni fa, mio nonno fondò un'impresa che produce tutt'oggi casalinghe in plastica. E secondo tradizione sarei stata io, in un futuro, a prenderne il timone. Gli stampi apparivano enormi e un po' magici. Trasformavano in un battibaleno quelle minuscole palline di polipropilene colorato in splendidi oggetti destinati all'uso casalingo. Ecco, crescendo dovetti sacrificare la passione per la musica per seguire tutto questo. Ma oggi ho deciso di modificare il mio futuro, di ridare nuovamente voce alla mia passione. Una manciata di polipropilene di colore blu. Questo è l'oggetto che metto in vendita. Ho deciso di rincorrere la musica e nello scorso mese di aprile, con un po' di sana pazzia, ho fatto domanda di iscrizione al conservatorio. Vendo tutto ciò per realizzare il mio sogno. La manciata di polipropilene ha un valore commerciale pari a 49 centesimi. Per me, invece, ha un valore inestimabile. Questo pezzo è un pezzo del racconto che ci ha inviato Marta Scarabelli. Marta di fatto partecipa al concorso, però purtroppo non sarà presente a Riva del Garda, e quindi noi avremo piacere di avere lei finalisti, quindi vedremo come comportarci, cercheremo di fare in modo che lei ci sia, o altrimenti faremo in un altro modo. Vi ricordo che per partecipare al concorso ancora avete 3 giorni, 2, 4, oggi è martedì, quindi fino a venerdì, mercoledì, giovedì, venerdì. 3, giusto? Perché non si conta mai il giorno da cui si parte? Cioè, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, giusto? Sono 3 giorni, da qui a venerdì, avete tempo fino a venerdì alle 16.30 per partecipare al concorso. Mandate un racconto di una pagina dell'oggetto di cui volete liberarvi. Mandate una mini biografia vostra e un desiderio da realizzare. I 5 migliori racconti saranno a Riva del Garda e sabato 19 giugno alle 22, in una serata finale, io leggerò i 5 racconti, si farà un'asta degli oggetti, dei veri e propri oggetti che saranno presenti lì insieme ai loro proprietari, e il vincitore del concorso, deciso chiaramente da una giuria, si porterà a casa al montepremi dell'asta per realizzare il proprio desiderio. Vendo tutto @radio24.it per inviarci i vostri racconti, ma anche per scriverci. E invece, per sapere meglio di come l'ho spiegata adesso, tutto il regolamento è sul sito radio24.it. Io ringrazio ancora Marta. Marta scrive: sono nato in un comune della provincia di Bergamo 26 anni fa, laureata in economia e amministrazione d'impresa. Sto frequentando gli ultimi anni della specialistica dell'Università di Bergamo. Nel frattempo lavoro part-time presso l'impresa di famiglia. Produciamo casalinghe in plastica e in questo settore il nostro marchio è abbastanza noto. Il desiderio di Marta, per concludere tutto, entrare in conservatorio e diventare una musicista. Vendo tutto @radio24.it se volete partecipare, se avete voglia di liberarvi di qualcosa e di cominciare qualcosa di nuovo. Oggi è proprio di quello che si parla, perché oggi vendo un kazoo che per l'occasione ho qui con me. Questo è uno strumento musicale che credo sia nato come richiamo per gli uccelli, una roba del genere, lo usavano i cacciatori. Io mi ci sono stufato dopo 5 minuti che l'avevo comprato, questo strumento. È per questo che oggi è proprio di quello che parlo, ma è soprattutto di quello che vorrei che parliate voi. 800240024 349-238-6666. L'ultima cosa di cui vi siete stufati. Che sia una cosa grande, che sia una cosa piccola, che sia una lista, che siano 1, 2 o 10 cose. 800240024 oppure 349-238-6666. Può essere di tutto. Vi faccio un esempio di quello di cui mi sono stufato io recentemente: del cibo cinese, delle vacanze di gruppo. Mi sono stufato di condividere la casa con altre persone, del corso di yoga, di lavare i piatti. Mi sono stufato della mia macchina che c'ha più di 20 anni, della casa in montagna, di non portare a termine le cose. Mi sono stufato delle partite di calcio. Ci sono partite di calcio da quanto, Rudy? Saranno 2 anni, solo calcio. Mi sono stufato del design, mi sono stufato dei festival estivi, del CD che c'è in macchina e che non cambi mai, è sempre lì, lo risentirai, però non è che lo porti giù, no, rimane sempre lì. Mi sono stufato di quelli che, guarda, quel cantante è bravo, all'inizio, poi è diventato un po' commerciale. 800240024, ma sul profilo Facebook, sposto il microfono, lo faccio sentire a tutti. No, non si è sentito. Mi scrivono: Chiara, mi sono stufata di pensare al mio futuro senza riuscire a prendere una decisione. Stefano, della pizzica e dei campanellisti salentini, tra parentesi scrivo da Lecce. Sofia, della scuola, del caldafoso, del suono della campanella ogni ora a scuola. Sofia, quanti anni hai? Brunella, di ascoltare persone che aprono la bocca e parlano del nulla. Quanto tempo sprecato. Elisabetta, di chi critica e si lamenta solo sempre. 80024 0024 349 238 6666. Solo di cosa vi siete stufati? L'ultima cosa di cui vi siete stufati. La scrivete e la raccontate velocemente all'80024 0024. Andiamo avanti, parliamo del kazoo e lo sentiamo anche per vederlo radio24.it, per sentire la sua storia. Eccoci qui. Il kazoo, strumento musicale a fiato che fa parte della categoria dei membranofoni. Materiale metallo, colore oro. Dimensioni, lunghezza 13 cm, larghezza 3 cm. Perfetto per fare il richiamo degli uccelli o per suonare dal vivo insieme a Paolo Conte. Valore commerciale 7 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. In questi giorni sto camminando molto. Sarà che questo mi è sembrato l'inverno più lungo della mia vita. Sarà che ho bisogno di schiarirmi le idee. Ma da quando è riapparso il sole faccio un sacco di chilometri a piedi. Vengo in radio a piedi, vado al cinema a piedi, perfino a giocare a calcetto ci vado a piedi. Camminare è quasi terapeutico. Ho letto da qualche parte che camminare un'ora al giorno fa bene alla salute ed è meglio di una seduta dall'analista. Ormai non cammino solo per andare da qualche parte, eh? No, cammino giusto per il gusto di camminare. Cammino come se stessi andando in qualche posto, però in realtà non sto andando da nessuna parte. Finisce il programma, io esco dalla radio e mi prendo un paio d'ore di cammino tutte per me, a zonzo, per Milano. Guardo la città, le persone che la popolano. Se vedo una chiesa, magari ci entro, mi siedo su una panca. Se c'è una messa me l'ascolto pure, se no rimango lì e penso. Poi mi alzo, continuo a camminare. Anche se vivi nella stessa città da molti anni, ci sono dei posti che nemmeno sapevi esistessero. Invece sono lì, chissà da quanto. Ieri ho fatto una cosa che non facevo da un sacco di tempo. Ho comprato un oggetto. Visto che mi sto liberando di tutto, era da un po' che non mi compravo qualcosa. Stavo camminando lungo il naviglio grande, quello che dalla Darsena porta verso Vigevano. È una bella passeggiata da fare. Si passa a fianco al vicolo dei lavandai, poi si prosegue e si raggiunge il libraccio, la libreria dove si vendono e si comprano libri usati. Lì di fronte si attraversa il ponte di ferro e si passa sull'altra sponda del naviglio. Si incontra un negozio di roba militare, poi un antiquario, qualche caffè e poi ancora un altro negozio di vecchi mobili. In questi giorni il naviglio è pieno d'acqua e l'acqua è limpida. Dalla società canottiera risalgono barche, strette e lunghe. Poi si attraversa un ponte più grande, si passa di fronte ad un parco e si scende verso la circonvallazione esterna. Lì ho girato a sinistra per andare verso casa e mi sono trovato davanti ad un negozio di musica. È un negozio molto grande, molto frequentato. Commessi e clienti parlano un linguaggio tecnico che io non capisco, però mi piace ascoltarlo. All'interno c'è un reparto per le chitarre, uno per i pianoforti e al piano di sopra gli strumenti a fiato. Poi in un'altra sala ci sono quelli a percussione, batterie e tamburi in generale. In un angolo di questa sala c'è una vetrinetta con dentro quegli strumenti piccoli che uno che non conosce la musica non sa nemmeno che esistano, come i marranzani, ad esempio, o il kazoo. Il kazoo è un tubicino con un foro centrale, chiuso da una membrana che vibra quando ci si parla dentro. Pare che sia nato per imitare i versi degli animali, però di fatto il suono che ne esce sembra una pernacchia. La prima volta che l'ho sentito suonare è stato dal vivo in un concerto di Paolo Conte. A quel punto ho aperto la vetrinetta e l'ho comprato. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz. Tra tutti gli oggetti che vendo, questo è quello che possiedo da meno tempo. L'ho suonato un po' per la strada mentre me ne tornavo a casa. Quando sono arrivato mi sono accorto che era stato un acquisto inutile, perché me ne ero già stufato. Credevo fosse una cosa che capita solo quando si è bambini, invece evidentemente capita anche a 30 anni. Dovrei sempre far passare un po' di tempo prima di comprare qualcosa. Non so quanto, non c'è uno slot di tempo fisso. Penso che il mio tempo di attesa prima di un acquisto sia direttamente proporzionale alle dimensioni economiche dell'oggetto che acquisto. Prima di comprare una macchina, ad esempio, dovrei far passare un mese, probabilmente. Prima di una televisione una settimana, prima di una rivista 5 minuti, prima di un abito un paio di giorni, una roba del genere. C'è come un meccanismo di autoregolamentazione che mi permette di valutare se quella cosa ha davvero un valore oppure solo un capriccio momentaneo. Probabilmente se avessi aspettato 30 secondi questo kazoo non me lo sarei comprato. Stufarsi di una cosa è sempre una piccola sconfitta. È come ammettere di non conoscersi a sufficienza. Perché conoscere i propri gusti non è così scontato. Sapere distinguere tra quello che ci piace e quello che siamo convinti ci piaccia o ci fanno credere che sia desiderabile non è proprio semplice. Io mi sono stufato di un sacco di cose che credevo mi piacessero. Nel tempo mi sono stufato di mangiare giapponese, ad esempio, di guardare film americani, dei poster alle pareti, dei libri che non raccontano storie, delle vacanze sulla spiaggia, della frutta fuori stagione. Mi sono stufato dell'abbigliamento casual, dei giornali d'opinione, delle ciabatte da piscina, della TV a pagamento e di quella gratis. Mi sono stufato di stare davanti a un computer, del telefonino e di parlare alle persone senza guardarle in faccia. Mi sono stufato però anche di chi rimpiange i bei tempi andati e di chi è di questo passo dove andremo a finire. E dopo un'ora mi sono stufato anche di questo kazoo. Da piccolo mia nonna diceva che ero un fuoco di paglia. Il tempo di una fiammata e l'entusiasmo era già finito. Vendendo questo piccolo strumento che fa le pernacchie e che ha un valore irrisorio, vorrei provare a stufarmi delle cose. Sì, vorrei proprio ricominciare da capo. Vorrei capire un po' meglio cosa mi piace e soprattutto perché mi piace. Valutarlo con più saggezza e capire se quella cosa può avere senso nel futuro e non solo nel presente. Voglio farlo per le cose e per le persone, ma per i pensieri anche, e alla fine per le emozioni. Ho 35 anni, no? Credo sia arrivato il momento di farlo. Ecco perché la vendita di oggi è forse la più catartica che abbia mai fatto, perché ho intenzione di ricominciare e di farlo a partire da questo piccolo strumento musicale, un kazoo. Il suo valore è di 7 euro, la base d'asta, qui, sono 99 centesimi. Se avete voglia di raccontarmi l'ultima cosa di cui vi siete stufati, 80024 0024. A long time ago, when we were in school, you used to laugh at me, call me a fool. How I dreamed of the day that you would change your tune. I never thought that day would come so soon. You went from name calling. To calling my name. You went from schoolyard teasing. To all night pleasing. Used to be so much trouble. Now your love is doubled. Things will never be the same. You went from name calling to calling my name. 16:23, questa era di 24. Questo pezzo invece lo trovate sul profilo Facebook del programma, perché di solito lo mettiamo non solo sul sito di Radio 24, ma lo mettiamo anche i pezzi più belli su Facebook, se volete risentirli e se avete voglia di capire chi sono e che cosa cantano. 80024 0024, 349 238 6666, per raccontarmi dell'ultima cosa di cui vi siete stufati. Luca scrive: della gente che mi fa notare continuamente che ho la pancia, soprattutto quando non c'è grande confidenza. Loredana: della dieta, della sveglia la mattina. Caterina: di aspettare. E poi ancora: mi sono stufato di lavorare, mi sono stufato di pagare le tasse e poi invece di strade fogne mi trovo concerti di presunti artisti. Ciao, io sono Giacomo, mi sono stufato della mia donna. Ciao Matteo, mi sono stancato degli ipocriti che c'erano con gli ipocriti. Ciao, dopo anni di amore, ho visto anche un concerto a Marsiglia, mi sono stufata dei Depeche Mode. Ragazzi, con calma, sono anni ormai che i Depeche Mode. Mi sono stufato definitivamente del mio lavoro da consulente. Anzi, se qualcuno ha qualcosa da offrirmi, Luca da Ferrara. 80024 0024. Ce l'ho. Luca abbiamo? Ah, allora sentiamo subito Luca. Pronto Luca? Sono qui. Ciao. Come stai? Bene, abbastanza bene. Tu sei il nostro consulente di giornata. Sai che senza un consulente non si può andare avanti. Noi non riusciamo a fare una puntata. E innanzitutto, di che tipo di consulente sei? Finanziario. Ah, ok. Sono un agente, ecco. Beh, cioè, vuol dire che se io voglio fare un investimento, ti chiamo, no? Un prestito o un mutuo, non un investimento. Ah, ok. Quindi... Sono di quelli che il denaro cercano di darlo. Per poi riprenderlo in maniera... diciamo stare. Indecente, perfetto. Da quanto lo fai, Luca? 10 anni. E ti sei stufato quando? Ma negli ultimi mesi. E cosa vuoi fare? qualcosa di diverso, qualcosa che non sia. Ho capito, consulenza. Luca, però dimmi una roba che se vuoi. Potrebbe fare qualcosa nell'ambito della gestione, risorse umane, gestire persone. Non qualcosa che abbia a che fare con la vendita o comunque con questo che chiamiamo consulenza, ma in realtà è sempre vendita, perché in realtà nessuno è consulente. Ok, quindi cerca di vendere il proprio prodotto. Ok, hai delle prospettive davanti, cioè oppure no, è proprio una roba totalmente aleatoria al momento. No, non ho delle prospettive davanti, ho delle altre prospettive, ma sempre in questo mondo. Ok, tu invece bello vuoi poter cambiare. Tu sei di quelli che dice mi piace avere a che fare con le persone, per cui tipo sì, mi piace alla molto, posta. Mi piace molto gestire, mi piace molto coordinare. Mi piace molto organizzare. Ok, Luca, grazie mille. Ma figurati. Ciao, buona giornata. Ciao, alla prossima. Andiamo da Graziella in provincia di Milano. Pronto, Graziella? Ciao Luca, sono Graziella. Io sono Matteo, però se vuoi. Figurati, no, aspetta, stai ferma, riproviamo da capo. Andiamo in provincia di Milano da Graziella. Pronto, Graziella? Ciao Matteo, sono Graziella. Brava, così la prima parte la tagliamo. Bene, tu stai bene? Bene, sono troppo emozionata, scusatemi. Figurati. Senti, Graziella, dimmi di che cos'è che ti sei stufata. Sono stanchissima di correre come una pazza a prendere e portare i figli da tutte le parti, non avere un attimo di libertà. Voglio mollare tutto e andare in Africa. Ma anni fa sono stata in Africa da ragazza, ho il mal d'Africa da 15 anni. Ho visto un telefilm sull'Africa, sul Sudafrica. Questi telefilm sull'Africa e sul Sudafrica fanno male, perché uno è a casa, c'ha i figli, non ce la fa più, vede il telefilm e dice voglio andare in Africa. Quando è che vai in Africa, Graziella? Non ci vado. Grazie, Graziella, buona giornata. Ciao, Matteo. Ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo all'Aquila da Andrea. Pronto? Ciao, pronto, ciao Matteo. Ciao, Andrea, come va? Tutto bene, sto al lavoro. Bravo, che lavoro fai? Ho trovato un po' di tempo per te, perché seguo sempre il tuo programma e sono contentissimo di intervenire. E io sono contentissimo che tu ce l'abbia fatto. Che lavoro fai, Andrea? Io trasporto surgelati. Bofrost. Per locali, pub. Ah, bar, no, ok. No, perché ci sono quelli della Bofrost che continuano a chiamarmi, a dirmi, lei vuole i surgelati? No, io non mangio i surgelati. Scusami. No, guarda. Ok, Andrea. Comunque, forse ne mangi tantissimi senza che te ne accorgi. Allora. Sicuramente, quello sicuramente. Però io a casa non riesco a congelare la roba. Andrea, dimmi di cosa ti sei stufato. Mi sono stufato della mia ragazza che mi cerca sempre ma non mi vuole. Perché praticamente... diciamo a monte c'è il problema che la mamma non voleva 4 anni fa che lei stesse con me per una diciamo più o meno parentela e da lì ha sempre parentela paura. Tra chi? Tra te e lei? Tra me e lei, sì. Ma di che grado, scusami Andrea? Tipo terzo grado, secondo, terzo grado. Ma sai che poi non va sai che le robe comunque sono con le code, no? Che... i bambini con la coda nascono, dicono però mia nonna me l'ha sempre detto, tra cugini poi nascono i bambini con la coda. Sto già dicendo troppe vaccate, Andrea. No, non ti preoccupare. No, mi preoccupo e sì. E quindi per 4 anni diciamo abbiamo fatto una vita nascosti, comunque ci siamo sempre voluti e adesso siamo arrivati a un punto che... Andrea, mandale un messaggio, poi chiudiamo, mandale un messaggio. Adesso? Sì, in questo momento. Diciamo io e te possiamo essere io e te con tua madre che strilla tutti i giorni. Ciao Andrea, grazie mille, ciao, in bocca Matteo, al lupo, grazie, stai bene, grande, ciao anche tu. Un messaggio da Madrid, credo, mi sono stufato di vincere facile, firmato José Mourinho. Io saluto lui, saluto Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paulino Carleoni. Il Cazzù come al solito, oltre ad essere qui e anche sul sito di Radio 24 oppure sul profilo Matteo Caccia vendo tutto. Domani vendo un tavolino, voi se siete ancora in tempo imparate a suonare uno strumento, che la musica è sempre la musica.